si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua con Si può fare, ben ritrovati da me Alessio Maurizi, più avanti anche da Carlo Gabardini e poi naturalmente anche da Andrea Piana, autore insieme a Giorgio De Luca di questo programma, insieme a me naturalmente, Peter Bescapè in regia. I nostri contatti per interagire in tempo reale con noi, l'account Twitter del programma, ve lo ricordo subito, è chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Siamo anche su Facebook, Si può fare trattino Radio 24. Più avanti, dopo il giornale Radio delle 8, ci sarà la possibilità anche di intervenire in diretta come ogni mattina, ma adesso andiamo subito ad iniziare. And now the good news. Una piccola buona notizia per iniziare come sempre ogni weekend. Andiamo a Bologna, dove è stato inaugurato il primo tratto della tangenziale delle biciclette. Come sapete, noi siamo molto molto sostenitori, amici della mobilità sostenibile, che vuol dire sostanzialmente un pochino meno di automobili, se possibile un po' di mezzi pubblici e tante bici. Fa bene andare in bici, fa bene al traffico, fa bene all'aria, fa bene a tutti. Ebbene, a Bologna, nell'ambito diciamo di una serie di iniziative, l'ultima è stata proprio questa, l'inaugurazione di 2,5 km di tangenziale per le bici, per i bolognesi, da Porta San Mammolo a Porta Mascarella, e proseguono i lavori per chiudere praticamente, per circumnavigare tutta la città, 8 km, con una grande pista ciclabile detta appunto la tangenziale delle bici. Vai! Ma andiamo a dare un'occhiata ai giornali di oggi. Come sempre iniziamo, Si può fare, con un po' di rassegna stampa e poi i nostri approfondimenti, le nostre buone notizie. Oggi vi dico subito, parleremo anche di che cosa mangiano i nostri ragazzi, i nostri figli nelle scuole pubbliche, perché c'è la proposta nata dall'esigenza di un gruppo di vegetariani, di vegani, di portarsi il cibo da casa, laddove nelle scuole non c'è cibo per i vegetariani. Una proposta sostenuta dal Movimento 5 Stelle, cercheremo di capire se è una buona notizia, se siete d'accordo cari ascoltatori oppure no. Ma dicevamo, giornale di oggi, lo scontro tra Renzi e la CGIL ormai frontale, ancora qualche eco del voto scozzese, la quotazione di Alibaba a Wall Street, il gigante cinese dell'e-commerce che come sapete ha sbancato e ha battuto il record di Facebook. Cominciamo con il Corriere della Sera. Schiaffo di Renzi ai sindacati, difendete le ideologie, noi i lavoratori, l'accusa della Camusso, il tuo modello è la Thatcher. Va bene, il Corriere però si incarica di darci anche un'altra notizia, che è questa, due notizie che riguardano il mondo del fisco, tanto per cominciare a cambiare argomenti. La dichiarazione dei redditi sarà precompilata dal 2015 per 30 milioni di cittadini, pronto il decreto. Quindi questa è una buona notizia. L'altra è invece meno buona, perché è l'eterna vicenda delle tasse sulla casa. Tasi più cara dell'IMU per le famiglie povere. E questo è il conto che i CAF e anche l'Associazione Nazionale dei Comuni stanno facendo in questi giorni. Si prevede alla fine un conto più salato dei 4,4 miliardi di euro che furono incassati nel 2012 con l'IMU. Poi, sempre per quanto riguarda la questione Renzi-CGIL, Repubblica scrive così: Renzi attacca la CGIL, non sono la Thatcher, avete difeso le ingiustizie. Però la stampa intanto aggiunge un elemento a questa vicenda, che è questo: 2 miliardi per i disoccupati, la carta segreta di Palazzo Chigi, stanziamento subito nella legge di stabilità. Cosa succede? Che il governo avrebbe allo studio come mossa segreta, proprio per togliere armi diciamo a chi contrasta la riforma del lavoro, l'arma segreta sarebbe questa: a parte la fiducia sul decreto, che potrebbe passare con la fiducia e quindi diciamo forzare un po' la mano al Parlamento, ma soprattutto questo: nel testo della legge di stabilità, che sarà presentato alle Camere il 15 ottobre, comparirà una cifra scritta nera su bianco tra gli 1,5 e i 2 miliardi di euro per finanziare dall'anno prossimo e ogni anno a venire l'indennità di disoccupazione allargata anche a chi un lavoro oggi non ce l'ha. E sapete, questa è una vecchia questione, insomma, la riforma degli ammortizzatori sociali, la possibilità di dare un reddito, insomma, a chi perde il lavoro. Il Movimento 5 Stelle chiede da anni il reddito di cittadinanza, questa misura è una forma minore, intermedia, però una cifra che, scrive La Stampa, servirà a svuotare le ragioni dell'opposizione, a trascinare la pubblica opinione dalla parte del governo, a convincere chi nel suo partito sta sottovalutando, questo è un virgolettato di Renzi, l'enorme portata di quello che stiamo facendo. Per tornare al Corriere, un'intervista a Matteo Orfini, presidente dell'assemblea del Partito Democratico, non è un renziano della prima ora, è uno convertito sulla strada, sulla via di Damasco, ma insomma è uno vicino anche alle posizioni di Bersani, di Fassina, di quelli che hanno deciso di protestare contro questa riforma di fatto dell'articolo 18. E lui dice: i sindacati si sono voltati dall'altra parte, chiariamo i punti più delicati per evitare interpretazioni eccessive. Presidente Orfini, l'intervista: lei sta con Renzi o con la Camusso? Trovo incomprensibile che il sindacato scioperi preventivamente, c'è una discussione difficile in corso, suggerirei di aspettare l'esito. Chi ha generato precarietà, la politica o i sindacati, come dice Renzi? La politica in questi 20 anni, sinistra compresa, risponde Orfini, ha la responsabilità di aver precarizzato la vita di milioni di cittadini. Il sindacato, quella di essersi voltato dall'altra parte. Andrà in piazza con la CGIL? No, guardi, guarderò, dice, la manifestazione in televisione, anche se vanno Bersani, Fassina, Cooperlo e gli altri ex DS. E risponde Orfini: trovo curioso convocarla contro una legge che ancora non c'è. E in effetti questo anche è curioso. Quanto abbiamo, regia, prima della pausa? Un minutino, quindi leggiamo... cosa leggiamo? Qualche altro titolo. Sole 24 ore, mercati, effetto Scozia, euro ai minimi da 14 mesi, vittoria del no ai referendum, Cameron devolution alle quattro nazioni e si dimette Salomon, il leader indipendentista. Anche il Sole 24 ore ovviamente si occupa della Tasi. Sulla prima casa, 2 contribuenti su 3 non hanno agevolazioni, le scelte dei comuni che raddoppiano l'aliquota. Questo ed altro torneremo a leggere dopo il giornale radio delle 8, sui giornali, poi gli approfondimenti, le buone notizie, i vostri interventi in diretta, cari ascoltatori. Adesso però ci fermiamo un attimo. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo buongiorno cari ascoltatori e ben ritrovati da Alessio Maurizi. Eccoci qua con Si può fare, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire oggi in diretta, per commentare quello che sentirete durante la rassegna stampa, per raccontarci le vostre buone notizie. Parleremo tra poco di che cosa si mangia nelle scuole pubbliche, un'iniziativa dei parlamentari del Movimento 5 Stelle che raccoglie la richiesta di alcune famiglie vegetariane e vegane di portare il cibo da casa per non mangiare carne o derivati di qualunque tipo, formaggi, uova, questa è la scelta dei vegani, una scelta personale, oppure anche per non mangiare troppi cibi non naturali, cibi industriali, artefatti. Questa è una preoccupazione, credo, di qualunque genitore. È giusto però che si lasci questa possibilità ai genitori, oppure nella scuola pubblica deve essere lo Stato a garantire il cibo per tutti? 800 24 00 24. Oggi poi vi chiederemo anche di darci suggerimenti per migliorare le vostre visite nei musei, l'esperienza dei musei. Oggi è la giornata del patrimonio in Europa, le giornate europee del patrimonio, musei a un euro con apertura fino a mezzanotte in tutta Italia, quindi sbizzarritevi, oggi si entra in qualunque museo con un euro e l'ingresso anche dopo cena fino a mezzanotte. Però noi vi chiediamo, 800 24 00 24, di raccontare parlarci, come possiamo migliorare l'esperienza, orari estesi, sconti, eventi dentro i musei. Cosa dobbiamo fare per valorizzare questo benedetto patrimonio dei musei italiani? Riprendiamo però a dare un'occhiata ai giornali, dove si parla molto del braccio di ferro tra Renzi e la CGIL, e anche di altre cose. Allora, intanto, beh, i titoli li abbiamo visti: schiaffo di Renzi ai sindacati, il premier ha in mente la Thatcher, noi pensiamo ai precari, il sindacato alle ideologie, così il Corriere della Sera. C'è una notiziola intanto però sul Corriere che non riguarda Renzi ma riguarda un ministro del governo Renzi, la Mogherini, la gaffe della Mogherini, leader del Partito Socialista Spagnolo, che in TV ieri sera ha raccontato questo: quando ho salutato in Italia quella che sarà poi diventata l'alto rappresentante degli esteri europei, le ho detto: allora come sta? E lei mi ha guardato e ha detto: ma lei chi è? E io ho risposto: il segretario generale del PSOE, il leader dei socialisti spagnoli, Pedro Sanchez. Ha raccontato così ieri sera la gaffe del ministro degli esteri italiano Mogherini, futuro capo della diplomazia europea, durante la trasmissione spagnola El Hormiguero, una trasmissione nella quale i politici rispondono alle domande di alcuni pupazzi a forma di formiche. Vabbè, insomma, il segretario del PSOE ha incontrato la Mogherini alla festa dell'unità a Bologna il 7 settembre. Lei poi è diventata ministro degli esteri europeo, ma nel frattempo non sapeva nemmeno chi fosse il segretario del suo partito PSOE in Spagna. E va bene, una, visto che noi siamo sempre a caccia di buone notizie, una buona notizia, o almeno potenzialmente tale, la racconta sempre il Corriere: la finanza creativa che aiuta le scuole, social bond privati contro l'abbandono degli studenti, con possibilità di rendite per i privati se vengono raggiunti gli obiettivi sociali. Allora, vediamo un po', è una notizia che arriva dall'America. Qui a New York l'esperimento, il primo in America, l'ha iniziato 2 anni fa la Goldman Sachs, finanziando con 10 milioni di dollari un progetto per il reinserimento nella società degli adolescenti finiti nel carcere di Riker Island. Poi è arrivato il Massachusetts con un programma per ridurre il numero di homeless, programmi finanziati anziché dallo Stato, dai privati, con un meccanismo che in Gran Bretagna si chiama Social Impact Bond, in America Pay for Success Bonds. E praticamente che succede? Che lo Stato, anziché adesso questa cosa sta per sbarcare in Italia, perché il governo l'ha inserita, parla di Social Impact Bond nelle norme sulla riforma scolastica. Lo Stato, anziché intervenire direttamente, paga i privati per raggiungere un obiettivo, per esempio diminuire la dispersione scolastica o aiutare i detenuti a trovare un lavoro. Se questo obiettivo viene raggiunto, il privato che ha investito, può essere anche una banca, una fondazione o anche un'azienda privata, incassa una rendita. Se l'obiettivo non viene raggiunto, è il privato che si fa carico delle perdite di questo progetto. È una cosa nuova che c'è in America e c'è in Inghilterra, chissà se sbarcherà anche in Italia. Intanto c'è da domandarsi, insomma, se davvero la Goldman Sachs può essere coinvolta in progetti sociali come questi, per esempio. Repubblica, con un'intervista al Cardinal De Paolis, che è uno dei dissidenti rispetto alla proposta di Bergoglio concedere di nuovo i sacramenti a chi si è divorziato e si vuole risposare. Sapete che ci sono 5 cardinali in vista del sinodo che hanno scritto un libro e sono contrari. Lui dice: nessun complotto su chiesa e divorziati, difendiamo la dottrina ma siamo pronti a obbedire. Un'interessante intervista su questo tema sulla Repubblica di oggi. La Padania, all'indomani del voto scozzese, titola così: ora voto io, in Scozia vincono i no, ma soprattutto la democrazia, i popoli devono e possono decidere del loro destino. Insomma, la Lega se la giusta così: il referendum indipendentista non è passato in Scozia, però almeno hanno potuto votare. E ora sia devolution. Salvini, un'intervista al segretario della Lega Salvini, che dice: adesso Renzi lasci votare il Veneto, perché il Veneto ha fatto una proposta per un referendum per l'indipendenza del Veneto, ma è una proposta di legge che il governo ha impugnato alla Corte Costituzionale per bloccarla. Un'ultima notizia riguarda, ce la dà il Fatto Quotidiano, e riguarda l'elezione dei giudici alla Corte Costituzionale. Bruno è impresentabile, Donato Bruno, quello di Forza Italia, ma piace un sacco al Partito Democratico. Il candidato di Renzusconi alla Corte Costituzionale nega di essere indagato, dice non ho ricevuto alcun avviso di garanzia. E invece lo è, scrive il Fatto Quotidiano. Il suo coinvolgimento nella gestione del crack di ITR Holding però non turba il vice segretario PD Serracchiani, che lo appoggia, non è condannato, scrive un articolo Marco Lillo. Un Frankenstein alla Consulta, avrà 9 anni di scudo giudiziario, perché tanto dura il mandato alla Corte Costituzionale, e con l'ipotesi di un'altra norma cancella reato. Intanto lui, intervistato dal Fatto, dice non rinuncerei alla candidatura anche se fossi indagato, ma che sia indagato a questo punto pare che non ci siano molti dubbi. 800 24 00 24, ci fermiamo, torniamo tra poco. Sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e grandissima Reantré. Buongiorno a tutti. Grandissima Reantré, me la fai così, con un semplice buongiorno a tutti. Carlo Gabardini. Ciao a tutti, dai che sono emozionato, è il mio primo giorno di scuola. Però volevo dire a tutti, soprattutto a mia mamma, che sono al secondo anno, quindi sono molto contento. Questa è la buona notizia. Esatto. Se hai passato il primo anno, adesso dobbiamo arrivare a 5, minimo a 5 per il diploma. 13 direi, 13 anni. Ah, siamo in prima elementare. Siamo in prima elementare, siamo in seconda elementare, diciamo. Anzi, a dirla tutta, in realtà siamo al secondo anno di asilo, se dobbiamo essere onesti. E infatti, e già sto lanciando, perché poi parleremo anche di asili, giusto? Sì, sì, sì, parleremo di scuole, parleremo di tante belle cose. Sono sul pezzo, non è che sono qua semplicemente a dire stupidate. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, visto che siamo al secondo weekend dopo la pausa estiva. Ricordiamole le cose che bisogna fare, e bisogna chiamare. Certo, bisogna telefonare per parlare con noi, che è la cosa più, almeno a me la cosa che mi diverte di più è parlare con gli ascoltatori. Si sa, tu sei il giornalista, Alessio Maurizi, io sono il cretino del gruppo. Che giusto? Parla con gli ascoltatori. Esatto, no, anche tu parli con gli ascoltatori, tutti parliamo con gli ascoltatori. Io parlo con chiunque, ho dei dubbi su qualunque cosa e quindi parlo. Noi ci mettiamo a disposizione, mettiamo le nostre buone notizie anche al vaglio degli ascoltatori. Potete commentare per dire se siete convinti anche voi, se si tratta di iniziative che in effetti, come noi speriamo, spieghiamo spesso, aiutino a migliorare un po' le cose. Ci piacciono gli ascoltatori, sì, propositivi, diciamo, genere, solamente chi telefona per insultare, ma in questo direi che noi siamo molto fortunati, forse perché il sabato e la domenica mattina, diciamo, i rompicoglioni si svegliano più tardi, si può dire? Dopo una settimana di brutte notizie, agghiacciante, come direbbe Conte, la gente ha voglia di... Esatto, non so se ha voglia, ma che è importante, sì, perché è importante, in realtà noi non è che diamo buone notizie, diamo, diciamo, notizie di chi cerca delle soluzioni diverse per problemi noti che altri risolvono in altro modo. Per esempio, io ho visto una notizia in questa settimana di cui non parleremo perché è proprio così una dichiarazione estemporanea, però a me è piaciuta. Il presidente dell'associazione calciatori, Damiano Tommasi, ha detto proporremo alla FIGC di fare lo ius soli tra i calciatori, cioè i ragazzi nati in Italia, in attesa di avere le leggi sulla cittadinanza eccetera, possono giocare nelle squadre italiane. È una bella cosa, noi l'abbiamo fatto nell'hockey su Prato, ti ricordi? Certo. E già lo fanno, e questo è un piccolo spunto. Mi piace che cioè che non si può decidere una volta per tutte, ogni sport deve fare la sua piccola richiesta, dice senta, noi facciamo scherma, avremo bisogno dello ius soli, perché è un ragazzo che non è italiano però è nato in Italia. Io invece volevo leggere un tweet che mi sembra perfetto, che Kim Corea 83 che mi scrive, con che coraggio ti ripresenti dopo aver lasciato solo Ale Maurizi per tutto agosto. È vero, devo chiedere scusa per questo mio difetto. Effettivamente ammetto, ad agosto sono stato ben 8 giorni in vacanza all'Isola d'Elba e poi avevo da scrivere, quindi ho dovuto abbandonare Alessio Maurizi, e la cosa mi spiace tra l'altro tantissimo, perché mi siete mancati moltissimo, soprattutto il fatto di svegliarsi presto. Devo dire che non l'avrei mai detto questo, ho iniziato l'anno scorso. Scusami, ad agosto si andava in onda la sera, però questa cosa di svegliarsi presto mi piace moltissimo, devo dire. L'anno scorso invece mi lamentavo spesso e pensavo che fosse tutto un piano di mia mamma per far sì che io il venerdì e il sabato sera, diciamo, non fossi più uscito e non bevessi più e non andassi a gozzovigliare in giro per discoteche. E invece hai scoperto le virtù rialzarsi sì, presto. Sì, sì, sì. Stamattina, due volte a settimana. Esatto, il sabato e la domenica poi. Esatto. È bello vedere la città che si sveglia, su le solite cose un po' banali, che poi si sveglia. In realtà, appunto, essendo sabato e la domenica, sono meno persone che lavorano, anche se ci sono sempre persone che lavorano. Infatti sono venuto in metropolitana oggi. Ah, e voglio piano piano, durante questa nuova stagione di Si può fare, voglio disintossicare dal motorino. No, quello non ce la farò. Ci vuole una puntata a parte per parlare di questo. Vorrei provare a usare tutti i mezzi. Quindi una volta vengo in metropolitana, una volta vengo con l'autobus, una volta vengo addirittura con le biciclette del bike sharing. Perché ho deciso che quest'anno No, l'elicottero è impossibile. Poi ho paura di volare, quindi ci mancherebbe altro. Okay, bike sharing. Senti, voglio ringraziare Kim Jong-un per la sua solidarietà nei miei confronti. È stato molto gentile. Il gioco di oggi, sì signori, è questo. Noi chiediamo agli ascoltatori, mettiamo in palio anche oggi biglietti per la mostra di Marc Chagall, che è inaugurata a Milano, tanto una bella mostra Chagall, molto interessante. Chiediamo suggerimenti per migliorare i musei. Tu hai qualche suggerimento? Ce l'ho, ma mica lo svendo così, perché io spero che i biglietti non li diamo a nessuno, così ci andiamo te ed io a vedere noi. Chagall, diciamo, pagati dalla radio, perché sono le giornate europee del patrimonio. Allora oggi musei statali a un euro con ingresso fino a mezzanotte. Noi giochiamo e vi chiediamo questo: orari, ingressi scontati, eventi, tutto quello che volete proporre per migliorare i musei. Che cosa secondo voi andrebbe migliorato nei nostri musei o in generale nella gestione. Sì, se avete visto un bel museo, so, Madrid, il Prado, Londra. Beh, no, parliamo dei nostri. No, per fare dei confronti. Se uno ha visto, Ma non basta aver visto un museo. No, non basta aver visto un museo per vincere i due biglietti. Bisogna dare un consiglio. E noi decidiamo. Magari partendo da uno spunto dall'estero. E noi decidiamo qual è il consiglio migliore che si aggiudichi i due biglietti. E tanto la notizia è bellissima. Musei a un euro è una notizia straordinaria. Bella, a me piace molto. Oggi bisogna approfittarne. Adesso, come dicevi prima tu, andiamo a scuola. I look high, I look low, I'm looking everywhere I go, looking for a home in the heart of the country. I'm gonna move, I'm gonna go, I'm gonna tell everyone I know. I'm looking for a home in the heart of the country. Buongiorno Giorgio Sorial, deputato del Movimento 5 Stelle. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Senta, Sorial o Sorial? Ho detto bene Sorial? Corretto. Corretto, esatto. Perché sa, qua si sbaglia. Senta, noi l'abbiamo chiamata per questo, perché lei si è fatto portavoce di una esigenza di alcune famiglie di bambini che vanno a scuola di potersi portare il cibo da casa, e ha fatto un'interrogazione con il ministro dell'istruzione, credo, Giannini, per chiarire se questa cosa si può fare oppure no. Si tratta di famiglie vegetariane o addirittura vegane, cioè diciamo il massimo del vegetarianesimo, come possiamo dire. È un upgrade. Esatto. Ci spiega come nasce questa iniziativa, della quale tra l'altro noi insomma siamo curiosi? Allora, è una questione di educazione alimentare e di sovranità alimentare. L'iniziativa nasce in virtù di alcune situazioni che sono proprio balzate agli onori della cronaca anche nazionale, per delle mense scolastiche e per dei casi in cui le famiglie hanno ritirato proprio i figli dalla mensa scolastica nel momento in cui si è introdotta l'obbligatorietà per i bambini di frequentare la mensa scolastica. Il ragionamento che ha portato queste scuole a introdurre l'obbligatorietà della mensa scolastica viene spiegato per una questione di momento formativo e momento didattico, però dall'altra parte ci sono le esigenze di quelle famiglie che vogliono poter educare i propri figli con un'educazione alimentare magari differente da quella che viene proposta all'interno delle nostre scuole. E quindi la proposta qual è a questo punto, per uscire diciamo da questo impasse? Noi abbiamo fatto proprio un'interrogazione con i colleghi Cominardi, Basilio e Alberti, che sono miei colleghi di Brescia, proprio perché il caso era bresciano, e proprio abbiamo interrogato innanzitutto il ministro, come diceva lei, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per capire se il ministero, che è il ministero competente, avesse in mente qualcosa per superare questo impasse. In caso contrario, noi ci siamo resi disponibili comunque sia a valutare la possibilità di istituire dei programmi attraverso le nostre commissioni, sia la nostra commissione istruzione che la nostra commissione ambiente, ed essendo anche noi un gruppo parlamentare dove è forte anche la presenza di persone vegane o vegetariane, e capire come effettivamente poter istituire dei programmi differenti. La questione fondamentale è, oltre ad essere magari in alcuni casi economica, perché poi naturalmente si è sempre parlato di mensa scolastica dal punto di vista economico, è proprio una questione di momento culturale dove le famiglie Ma però non mi faccia troppo il politico, cioè arriviamo fino al punto la, di... La proposta qual è? Quella che ognuno può portarsi da casa il cibo? Potrebbe essere quella che ognuno si possa portare da casa il cibo, come è successo il pasto e il pranzo, come è successo in alcune scuole, può essere istituire dei programmi alternativi dove anche i genitori possano in qualche modo intervenire definendo il programma dal punto di vista alimentare, quindi con piani alternativi vegani, piani alternativi vegetariani, e possano in questo modo accontentare le però, esigenze anche sì, dei una domanda si parla soprattutto sì, di scuola dell'infanzia. Cioè, oggi se cioè un genitore può dire la sua per quanto riguarda i pasti del figlio a scuola, cioè se io ho una bambina di 3 anni appena iniziata la scuola materna, quindi non lo so, glielo chiedo. Cioè, se mio figlio non mangia carne, lo posso imporre o no? No, allora, dipende anche, proprio per questo noi abbiamo interrogato il Ministero in modo da poterci uniformare anche a livello nazionale. Quello che succede è che molte scuole, molti istituti decidono in maniera autonoma, anche attraverso l'utilizzo delle strutture esterne che poi forniscono i pasti. Quindi va un po' di caso in caso, insomma, cioè, esatto, dove si riesce ad accontentare. Ma sicuramente c'è la possibilità, nel senso che ci sono tutti quelli che hanno le allergie, chi non può mangiare il glutine, chi non può mangiare la carne, quindi non è che nelle scuole ti viene data un'unica possibilità, questo non è possibile. No, questo qua non l'abbiamo detto, infatti noi non abbiamo mai detto che venga data l'unica possibilità. Noi abbiamo detto che in alcuni casi, e spesso in molti casi, non c'è la possibilità per l'appunto per i genitori di poter in un qualche modo intervenire sul programma alimentare. Ma mi chiedo una cosa, chiedo una cosa, mi scusi, io sono Carlo Gabardini, sono lo stupido dei due, Alessio Maurizio è il giornalista. No, ma le volevo chiedere una cosa. Vorrei dirvi anche un paio di cose, perché vi ho sentito parlare anche di hockey su prato, quindi perfetto. Ma però ho un dubbio, perché questa cosa di portarsi il cibo da casa, quello che mi chiedo, non diventa un po' un problema se io ho un compagno di banco che porta gli spaghetti col salmone affumicato e io invece posso solamente permettermi del pane e cipolla e il riso in bianco, e io tutti i giorni vedo lui che, siccome c'ha i soldi, può permettersi di mangiare meglio di me? No, guardi, allora la questione economica sulla mensa scolastica è ben diversa, nel senso che io penso, e pensiamo noi che abbiamo interrogato per l'appunto il ministro da questo punto di vista, che il fattore economico, anzi, si riversi, come è successo, noi abbiamo dei casi a Brescia dove la questione economica si è riversata all'incontrario, ossia il fatto che alcuni bambini, alcune famiglie non potessero permettersi la mensa scolastica, non veniva garantita la possibilità di accedere alla mensa scolastica dalla provincia, dal comune, dagli istituti, perché per l'appunto questi genitori non potevano pagare le rette. Quindi al massimo il punto di vista economico si vede in questa situazione all'incontrario. È comunque in quel senso che quello che dico, io sono d'accordo che un vegano possa mangiare vegano, però che sia fatto dalla mensa, nel senso che sia per tutti uguale, perché se no diventa che se io posso permettermi di mangiare 14 camion di zucchine biologiche e invece devo mangiarmi la bistecchina secca, mi spiace. Sorial, resti un attimo con noi, dobbiamo fare la pausa per il traffico, un secondo. Le anticipo però un'altra domanda velocissima che le faccio dopo, prima di salutarci, ed è questa: l'educazione alimentare nella scuola, una proposta che gira anche del ministro Martina, se il Movimento 5 Stelle la appoggerà. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 800 24 00 24, di nuovo insieme all'onorevole Movimento 5 Stelle Giorgio Sorial, sulla interrogazione al ministro di istruzione Giannini in merito alla libertà, diciamo così, di poter consumare il cibo nelle scuole, anche per vegani, vegetariani, la possibilità di portarsi il cibo da casa. Adesso vedremo questa proposta, insomma, che strada farà. Io però per chiudere le ho fatto un'altra domanda, Sorial, per chiederle se voi siete disposti ad appoggiare la proposta di inserire, visto che il tema è importante e lo dimostrate anche voi con questa interrogazione, ci credete, l'educazione alimentare nelle scuole, proposta credo del ministro Martina dell'agricoltura, un po' di tutto il governo, anche se per ora non si sa se andrà avanti questa proposta, eh? Allora, io ho due domande a cui devo rispondere. La prima, che era quella che mi è stata fatta prima, sì, però in un minuto, in un minuto, pausa, sì. Sono velocissimo. Noi non dobbiamo pensare che i bambini si guardino tra virgolette nei piatti e facciano il conto di quanto ha pagato uno e quanto ha pagato l'altro. Sono problemi che si fanno più i grandi. E quindi se un bambino si porta a casa da casa il salmone o le zucchine biologiche e l'altro no, stiamo parlando di bambini di 3-4 anni la cui importanza è quella di poter essere alimentati in maniera corretta. E soprattutto perché quello che diciamo noi, che oltre al fatto di portarsi gli alimenti e il pasto da casa, c'è anche la possibilità di portare a casa il bambino, cosa che in questo momento si vieta, di portare a casa il bambino per consumare il pasto e il pranzo a casa. E questo è il fattore più importante per noi, dove c'è la completezza dell'educazione alimentare tra le mura di casa. Ok, questo, educazione alimentare a scuola? Per quanto riguarda l'educazione alimentare, in realtà è una proposta che noi abbiamo visto da marzo del 2014, sono passati un po' di mesi e nel frattempo non si sono fatti passi in avanti da questo punto di vista. La nostra commissione istruzione, che è la commissione preposta alla valutazione di tutte queste proposte, è una commissione che l'ha studiata la proposta da marzo e ci ragionerebbe senza nessun problema se portarla avanti con le eventuali modifiche. In realtà purtroppo non si è ancora fatto nessun passo in avanti. Esatto, siamo fermi. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa. Grazie Sorial, buona giornata, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci, grazie. Allora, adesso aggiungo solamente una cosa stupidissima, che comunque è verissimo, che se sono bambini piccoli magari non vedono la differenza fra cibo. Secondo me comunque un bambino anche piccolissimo la differenza fra pane Nutella e pane cipolla la vede. Oh, che croce la dovrebbe vedere. Mario da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, stavate parlando prima come alimentare la partecipazione ai musei. Sì. Ecco, allora, la mia esperienza è questa. Io prima, ho 70 anni, prima andavo al museo o alle mostre permanenti di Bologna gratis, e ogni tanto andavo là, mi guardavo, mi sedevo, mi guardavo i miei quadri. Adesso non è più possibile? No, aspetti. Mi dica. Piano, allora, io guardavo. Piano ma con ritmo. Poi... ascolti, mi lasci parlare. Ma certo, sì, arriviamo al punto però, che abbiamo anche altri ascoltatori, Mario. Allora, adesso io vado là e devo pagare. Allora, io ho già quasi 2 anni che non ci vado più. Quanto costa adesso l'ingresso? Non lo so. Dipende. Come non lo sa? Perché lo devo sapere. Quando mi hanno detto pago, non l'ho neanche chiesto. Cioè, prima dipende quanto paga. Se paga un centesimo, non paga un centesimo. Prima era gratis, Mario, scusi. Prima era gratis perché? Certo. Per l'età? Adesso, o perché era in pensione? Paga. Credo che siano 3 euro. Vabbè, ma non stiamo lì a... Stiamo parlando di soldi. Scusi, Mario, ma era gratis perché per via dell'età o perché cosa? Qual per via dell'età. Per via dell'età. E adesso non c'è più questa cosa. Al museo di Bologna lei sta parlando. Sì, adesso fanno pagare. Allora io prima andavo là, mi sedevo, guardavo, godevo di queste cose che godono da sempre solo qualcuno. E va bene, Mario, questo è, diciamo, il suo suggerimento: ritornare a non far pagare le persone sopra una certa età. Ma solo per gli anziani, lei dice, o vorrebbe che fossero gratuiti per tutti? Ascolti, le parlavo della mia esperienza. Ecco, va bene. Allora, va bene. Adesso grazie. Grazie a che cosa? Della sua esperienza. Sì, ma io voglio dire che stavate parlando di alimentare o propendere per la partecipazione, poi arriva questi che, perché per esigenze di cassa, mi fanno pagare. Io non ci vado più. Se quello è il modo di aumentare le visite in musei, non mi sembra proprio... Va bene, io credo che possiamo salutarci, Carlo, se non hai altre curiosità su Mario. È chiaro che il problema di Mario qual è? È che se nessuno paga per entrare ai musei, tu dici no, i musei non incassano. No, no, però... ero incuriosito a capire qual era la questione. Se lui diceva che bisognava entrare gratis solamente gli anziani o tutti gratis, non credo che sia possibile, quindi forse no, lui diceva gli anziani, ho più di 70 anni, prima entravo gratis, adesso non più. Io credo che Mario non abbia tutti i torti, cioè le politiche tariffarie sono importanti, sconti, ingressi gratuiti, poi i musei guadagnano, per esempio i musei a Londra che sono gratuiti, tipo la British Museum o la Tate Gallery, guadagnano con la caffetteria, col bookshop. C'è un sacco di musei a Londra che costano una fucilata, sì, ma qua parliamo dei musei pubblici, ci fermiamo, giornale radio, torniamo subito dopo, 800 24 00 24, dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in diretta, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, di nuovo insieme dopo la pausa estiva, secondo weekend di Si può fare, primo weekend in cui ci ritroviamo tutti. Esatto, per me è il mio primo giorno di scuola. Con anche Andrea Piana, che è autore insieme a Giorgio De Luca e noi di questo programma, oggi con Peter Bescapè in regia. Ricordiamo che abbiamo parlato con l'onorevole Sorial di questa interrogazione al ministro Giannini sulla possibilità di portarsi il cibo nelle mense scolastiche da casa, o di portare, se non ho capito male, addirittura i bambini a casa per il pranzo, una cosa del genere, ha detto Sorial. Ha detto così, sembra che mangiano i bambini, scusami, non credo che possano portarsi a casa i bambini per mangiarli. Il problema è il cibo vegano. Esatto, l'altra proposta era di poter intervenire sul tipo di cibo che viene proposto nelle mense, che è quella che mi sembra più sana, per il motivo che dicevamo, nel senso che se ognuno se lo porta da casa diventa un po' un macello, che ognuno decide che cosa portarsi e diciamo non c'è un'uguaglianza. Sì. Lui dice che sono bambini e non se ne accorgono. Io, come hai detto giustamente anche tu, ho qualche dubbio. 800 24 00 24, il dubbio che i bambini non se ne accorgono, se ne accorgono benissimo, e questo pone in effetti un problema. Siamo nella scuola pubblica, portarsi cibo da casa, punto. Ho fatto come di esempio, domanda, infatti, pane e Nutella, pane e cipolla, mi hanno già redarguito su Twitter dicendomi che penso sempre alla Nutella. Retropensiero. Poi oggi vi ricordo che chiediamo anche i vostri suggerimenti. Oggi è la giornata, le giornate europee del patrimonio, musei a un euro in tutta Italia, musei statali, ingressi fino a mezzanotte, poi vi diamo anche qualche suggerimento. Insomma, tutti i musei, tantissimi italiani, da Pompei, con cui chiuderemo anche la puntata, al, non lo so, al Cenacolo. No, il Cenacolo è un museo statale, credo di sì, ce l'ho nell'elenco, dopo guardiamo, Milano. Sì. Suggerimenti per migliorare. Che cosa fareste voi per migliorare i musei? E chi, diciamo, dà il consiglio migliore al nostro insindacabile giudizio vince due biglietti per la mostra di Chagall. Fantastico. Barbara da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. E ben ritrovato a Gabardini. Grazie mille. Allora, io ho in mente sui musei, era per questo che volevo intervenire, un consiglio che potrebbe essere, che è anzi per incentivare, ma anche per monetizzare, che mi sembra una roba... Insomma, è sempre utile, se no i musei poi chiudono a un certo punto. No, apprezzo molto quello che ha detto l'ascoltatore di prima, perché è vero che la bellezza deve essere condivisa il più possibile a tutti quelli che hanno le possibilità e non, ma se non si monetizza finisce che poi... non ci può più andare nessuno. Vero, esatto. E allora la mia idea è una vecchissima idea di marketing, però sono quelle, cioè diciamo il basic che funziona sempre. Ci dica, non ci tenga sulle spine. Due biglietti per un viaggio, la vincita, la possibilità di vincere un viaggio in Italia, non ho la carta italiana, e ne farei esattamente due di estrazioni, una per stranieri, una per una coppia di stranieri e una per una coppia di italiani. Cioè chi paga il biglietto partecipa a un'estrazione di un viaggio, questo è una lotteria, brava. Esatto, una volta l'anno ci si organizza, ovviamente, e ovviamente attenzione, solo sui biglietti paganti per intero, non sì, quelli già scontati, eccetera eccetera. Mi sembra un'ottima idea, Barbara. Mi è sembra un po' macchinoso magari gestirlo dal punto di vista del tenere, però secondo me è un'idea. Beh, non basterebbe mettere un numero, una cifra, anzi che sicuramente c'è già sui biglietti, poi si fa una semplice estrazione. Ne farei un po' più di una all'anno, diciamo. Anche due, tre, sì. Perché no? Io la farei a fine giornata, direi, che così tutti stanno lì anche ad aspettare. Pensa, stanno nel museo fino a mezzanotte quando c'è l'estrazione. Pensa che gli stranieri che sanno di questa cosa, dico, posso vincere un viaggio gratis in Italia, compro il biglietto per il museo, per il Cenacolo di Milano, cioè diventa una bella cosa. Però noi siamo contrari al gioco d'azzardo, Alessio, quindi io non lo so la tua posizione come, pensaci. Vabbè, bene, no, questa ma cosa. Questa è una lotteria, non è un gioco d'azzardo, è una cosa diversa, va bene. Un po' diversa. Te la passo, te la passo. Mario da Genova, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Torno un attimo all'argomento di prima, quello sì, relativo alle mense scolastiche. Ci dica. Preoccupando, mi sembra, dei vegani che abbiano o non abbiano la possibilità di continuare a... Beh, non solo i vegani, diciamo, chiunque abbia delle particolarità alimentari. O comunque vegetariani, sì. Ma io mi domando, esiste qualcuno che valuti se i pasti che vengono somministrati a scuola abbiano i poteri nutrizionali adeguati? Bella domanda. Io credo che l'ASL eserciti un qualche controllo, non so se sui valori nutrizionali, forse sull'igiene, sulla sanità, però... Dici di sì, Carlo, che c'è qualcuno che valuta i valori nutrizionali? Sì, direi proprio di sì, adesso non è che ho dei dati sotto mano, ma sicuramente diciamo, Mario, ma l'attenzione che c'è su questo argomento. Era una domanda retorica, lei ha già una risposta o era proprio una domanda vera? No, era una domanda vera, anche perché io ho telefonato quando c'era in linea il parlamentare Sorial, certo, del problema dei vegetariani o vegani. E allora mi domandavo, ma potevamo chiedere a lui se effettivamente esiste qualcuno che determina... La giriamo, la lasciamo nell'etere questa domanda, grazie Mario, non siamo in grado di rispondere, Carlo azzarda sicuramente qualcuno controllerà, io non lo so. Se qualche ascoltatore all'ascolto lo sa, ce lo dica, così capiamo chi vince. Usciamo dal buio, esatto. Usciamo dal tubo. Che cosa scommettiamo? Dobbiamo scommettere una pizzetta, quella che mangiamo una dopo pizzetta. Alle 10 quando finisce il programma. Senti, facciamo anche Diego da Firenze, vai. Diego. Buongiorno Diego. Ciao. Per me la proposta che potevo fare per migliorare i musei sarebbe di organizzare, tramite le fondazioni o chi gestisce i musei, corsi di avvicinamento all'arte. Tramite magari con un professore di storia dell'arte o qualcuno che si occupa di arte, un gallerista o anche semplicemente un volontario che ovviamente dimostri una certa conoscenza, l'organizzazione di... Ma tipo anche corsi a pagamento? Non... Certo, magari per partecipare uno dà un euro, una un euro, 5 euro, sai, una quota simbolica per partecipare una volta a settimana, due volte a settimana, poi... Lezioni d'arte, storia dell'arte. Diventa un impegno però, invece che andare in un museo uno deve andarci due volte alla settimana, No, ma anche solo semplicemente per avvicinare di più le persone a entrare in un museo. Certo. Perché magari uno va una volta in un museo, in un gran bel museo come può essere gli Uffici qui a Firenze, e magari vederlo una volta e poi tornarci dopo 10 anni, 5 anni. Invece in questo modo si dà più continuità. Va bene Diego, grazie per aver partecipato anche lei con la sua proposta, corsi insomma di arte dentro i musei, perché no? 800 24 00 24. Tu ci andresti? Ai corsi? Sì, mi piace molto, nel senso che non è chiaro se si paga o no. Non è chiaro se è la guida del museo che quindi mi spiega, perché spesso il problema dei musei è che uno va nei musei magari e non sa che cosa vedere e va a vedere solamente i tre quadri che sono sulla sua guidina, e quindi magari diciamo che già la guida è una specie di corso di arte. Esatto, io adoro anche quella cosa con le cuffie, mi piace moltissimo che ti metti la cuffietta e senti la registrazione nei musei che ti fanno i percorsi. Ma sono fatte bene quelle cose, poi ti metti la cuffia e vedi il quadro sbagliato e sta parlando di un'altra cosa. Ma anche quello è un'operazione artistica bellissima, è qualcuno che ti spiega Pinturicchio e tu invece stai guardando Andy Warhol, è perfetto. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Non mi basta mai. Non mi basta mai. Non mi basta mai. Non mi basta mai. Voglio un panino gigante con dentro un milione di cose. Voglio Madonna per portarmela a letto e poi mandarle un milione di rose. Voglio una vasca piena di Coca-Cola e mentre nuoto voglio bere e abbronzarmi. Voglio telefonare al presidente americano e al telefono voglio sfogarmi. Voglio un aereo, che dico, una nave, che dico, uno sciatto, un sottomarino. Voglio sposarmi con mille ragazze e per ognuna io voglio un bambino. E voglio un casco di panna montata, me lo voglio poi mettere in testa e poi mangiare la panna montata, mangiarla tutta fin quanta ne resta. Voglio essere magro, coi muscoli in mostra. Voglio vestiti di tutti i stili. E voglio vincere l'Oscar e il telegatto, il leone dei premi mai visti. E non mi basta mai. Non mi basta mai. Sui vitalizi dei politici ci sono una serie di iniziative volte a ridimensionarli, a fare piccoli tagli anche per chi già li percepisce, parliamo soprattutto di consiglieri regionali, ma a noi non ci basta mai come a Giovanotti, cioè noi vorremmo proprio abolirli i vitalizi perché sono un privilegio. Ah, non ci basta mai le siamo riduzioni, noi. Non ci bastano mai le riduzioni. Pensavo fosse il parlamentare che diceva o il consigliere che diceva non mi basta mai, ne voglio sempre di più. La puoi leggere in tutti e due i modi. Adesso siamo in Lombardia dove c'è stata la prima approvazione con il voto in commissione affari istituzionali del progetto di legge per il taglio dei vitalizi degli ex consiglieri regionali lombardi sotto forma di un contributo di solidarietà medio del 10%. Ne parliamo con Stefano Bruno Galli, consigliere regionale lombardo della lista Maroni Presidente. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Una buongiorno. Legge che dovrebbe andare in consiglio per la discussione finale martedì, quindi noi staremo lì col fiato sul collo perché capirà che questo argomento ovviamente interessa ai cittadini, perché il vitalizio così come l'abbiamo conosciuto è una cosa che è una brutta parola, anche se possiamo dire è una brutta così parola. Sembra veramente una roba che uno prende dei soldi, in realtà è un pezzo di pensione, è giusto? Sì. Sono l'ignorante dei due io. Sì, sostanzialmente è quello. Ci sono state delle riduzioni sulle vecchie retribuzioni che poi ha far data fino ad ora dai 60 anni in poi. Noi l'abbiamo alzato a 66 anni, la soglia per maturare il diritto al vitalizio. Questo però per i futuri consiglieri o già per quelli di adesso, cioè per lei? No, allora, quelli di adesso non lo percepiscono già più, cioè nel senso noi non percepiremo vitalizio perché ce lo siamo tolto. Percepirete pensione a che anno? A che no, età? No, non percepiremo nessuna pensione, neanche il trattamento di fine mandato, perché li abbiamo tolti tutti e due. Perché noi dall'inizio della legislatura diciamo che ci stiamo muovendo in modo molto virtuoso nella direzione del taglio di quelli che si chiamano i costi della politica, perché ci siamo ridotti del 65% circa la retribuzione nostra, tant'è vero che a un cittadino lombardo la politica costa 1,30 euro all'anno, che vuol dire un caffè all'anno grosso modo. Un caffè molto caro anche, tra l'altro. Vabbè, 1,30 euro, dai. Stavo scherzando. E poi ci siamo tolti vitalizi e trattamento di fine mandato. Quindi, questo vale anche per voi consiglieri già in carica? Cioè... Per noi consiglieri attualmente in carica non c'è né vitalizio né trattamento di fine mandato. Ma e invece questa nuova proposta è di ridurre il vitalizio a coloro che sono già andati in pensione, giusto? Bravissimo, di chi ci ha preceduto e che... Se mi dice bravissimo così mi emoziono, perché il giornalista è Alessio Maurizio, io sono Carlo Gabardini che sono lo stupido, quindi sono molto contento. No, e per chi ci ha preceduto, che se ha un'età superiore ai 60 anni già gode di questo diritto, se invece ha un'età inferiore ai 60 anni lo godrà, e noi gliel'abbiamo alzato da 66 in poi. Sì. Per cui abbiamo ridotto poi rispetto all'età media della popolazione lo specchio nell'ambito del quale usufruire del diritto. E come verrà presa? Scusa, aspetta, c'era qualcuno che stava per percepire il vitalizio, siete arrivati voi che, con questa legge che ancora non è andata in vigore e che vede sfumare questa cosa di qualche anno, di 6 anni, è così? Sì, allora ce n'è uno, se non erro, che adesso non ricordo se il suo diritto matura entro la fine di settembre o entro la fine di ottobre. Morale è a metà del guado e probabilmente verrà punito. E un esodato della politica, è solo un paradosso, perché in realtà è giustissimo quello che state facendo, e quindi, però bisogna vedere se la legge la approvate, mi raccomando non fate scherzi. No, beh, dovremmo approvarla, anche perché dal gruppo di lavoro che abbiamo creato, ci stiamo lavorando appunto dall'inizio della legislatura, prima abbiamo guardato a noi stessi, adesso guardiamo ai vitalizi, sì. Poi insomma siamo usciti con una proposta condivisa da tutti i gruppi politici, maggioranza e opposizione, con diciamo un atteggiamento che per esempio i grillini, quando ci siamo ridotti la nostra retribuzione, avevano presentato una proposta un pochino più radicale rispetto alla nostra, e in questa circostanza non l'hanno firmata, ma l'annuncio è quello che la voteranno in aula. Però mi sembra di aver capito che l'associazione degli ex consiglieri regionali non l'abbia presa benissimo. Annunciano ricorso, lo temete questo ricorso? Ma no, perché diciamo che abbiamo cercato di costruire una proposta di legge, quella che approveremo martedì, il più blindata e il più robusta possibile dal punto di vista giuridico, tecnico-giuridico. Tant'è vero che lei parlava di contributo di solidarietà, nella legge si parlerà sostanzialmente di una riduzione temporanea dell'assegno vitalizio. Temporanea? Sì, temporanea fino alla fine della legislatura. Ah, pensavo fino alla fine della vita, e allora dicevo temporanea, ma non molto. No, ma alla fine della legislatura, per consentire a chi viene dopo di noi di confermarla. Certo, è che è molto diversa come cosa. Adesso mi spiace che faccio io quello impopolare, nel senso che un conto è dire da d'ora in poi vitalizio non ci sarà più, un conto è dire a qualcuno che invece gli è stato promesso, poi dovremmo capire se è giusto o ingiusto, se sono troppo pagati, ma questo non sta a noi. Nel momento che a me mi è stato promesso un vitalizio, che poi mi si viene a dire no, ti avevamo detto che ti davamo 100, invece ti diamo solo 90, è diverso, giusto? Ma sì, è diverso, però diciamo la legge di stabilità ce lo consente. La legge di stabilità parla dei tagli ai vitalizi, parla di adottare un principio di ragionevolezza. No, ma questo è correttissimo. Anche perché parliamo di assegni che media hanno questi assegni, lei lo saprà allora, sicuramente. La media sono 2.700 euro lordi. Sì. E quindi diciamo che lo spirito che deve emergere è parliamo però questo. Adesso dico una cosa io, cioè parliamo di un 2.600 euro lordi al mese di persone però che hanno fatto magari una o due consigliature, però nell'arco di una vita avranno fatto anche un altro lavoro e quindi hanno diritto anche a un'altra pensione, cioè non è la loro unica pensione. Se poi uno nella vita non ha mai fatto un tubo, fa 5 anni in consiglio regionale, si becca il vitalizio, si becca la riduzione e poi viene a piangere, io gli dico facevi prima a trovarti un altro lavoro negli ultimi 40 anni. No, ma io su questo sono d'accordissimo, quello che volevo semplicemente dire che comprendo benissimo in un momento di spending review che bisogna diminuire le spese, capisco anche chi sapeva di prendere 1.742 euro improvvisamente invece ne prende di meno, che si lamenti o provi a dire no scusate me l'avevate promesso adesso me li dovete dare, questo volevo dire. In sostanza arriverà un ricorso sicuramente, questo mi pare. No, ne arriveranno più ricorsi, più di uno. Però deve emergere di fronte a una tenete duro mi raccomando genere. Certo, sì. Noi non molliamo, però anche abbiamo cercato appunto di costruire questa proposta di legge di cui io sono relatore in modo che sia difficilmente impugnabile, anche se i ricorsi arriveranno. Il discorso però che deve emergere sono due ordini di ragioni che devono emergere. La prima: noi come classe politica di oggi ci siamo abbassati del 65% le retribuzioni, abbiamo ridotto i rimborsi ai gruppi consigliari, cioè abbiamo fatto un'azione virtuosa, è giusto che il sacrificio venga esteso anche a chi ci ha preceduto, cioè deve esserci una sorta di spirito corporativo, di essere classe politica che emerge di fronte a un provvedimento di questo genere. Al di là appunto dei diritti acquisiti, cioè deve essere e la ragionevolezza ci dice noi abbiamo provato a applicare. Inizialmente avevamo fatto dei modelli matematici sul retributivo, contributivo, e ci stavamo come dire, inoltrando in un terreno molto insidioso. Allora abbiamo pensato di ragionare per fasce di vitalizi e applicare una percentuale di riduzione, cioè da 1500 a 2500 l'8%, da 2500 a 3500 il 10%, da 3500 a 4500 il 14% e via così, di modo che diciamo la riduzione sia progressiva rispetto all'entità del vitalizio. Comunque, insomma, noi martedì saremo lì a tifare per il voto, che comunque ci dovrebbe essere, no, perché siete quasi tutti d'accordo, compreso il Movimento 5 Stelle, per una volta sarà un record forse in Italia. Vabbè, complimenti, andate avanti così, staremo a vedere, grazie. Un ultimo commento, sì. Sono 221 complessivamente i vitalizi, sì. O 222 in base alla persona di cui parlavamo prima, e complessivamente ci consentiranno di raccogliere circa, esatto, 650.000 euro l'anno. Buttali via, va bene. Ecco, che servono in un momento di grande difficoltà per il paese e anche per la regione Lombardia. Grazie Stefano Bruno Galli, soprattutto un segnale, un simbolo che quando si tratta di risparmiare si va a tagliare da tutte le parti, compreso lì. 800 24 00 24, torniamo tra un attimo. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Eccoci qua con lo spazio per gli ascoltatori all'800 24 0024. Oggi vi chiediamo suggerimenti per migliorare l'esperienza dei musei. Oggi giornate europee del patrimonio, musei a un euro in tutta Italia, approfittatene con ingressi fino a mezzanotte. Per esempio, questo è un suggerimento, potrebbe essere di farle più spesso queste iniziative, no? Non tanto le giornate europee del patrimonio, ma giornate così, per esempio quella a un euro, dici? Sì, oppure con aperture straordinarie, ci sono adesso, sono, credo, sono tutti i venerdì forse, alcuni musei hanno aperture fino a 10 di sera, adesso dico delle cose che non so, perché con una bambina di 3 anni ultimamente al museo ci vado poco, però questo potrebbe essere un suggerimento, no? Fabrizio da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Prego. Niente, allora, quello che poteva essere il mio suggerimento, la mia idea era visto che attualmente le visite ai musei sono gestite sul discorso stilistico da storici dell'arte, comunque con audio guide che aiutano a capire un po' meglio quello che si sta guardando, sì. Magari integrare questa cosa con delle visite condotte da dei restauratori che oltre condotte da? Dei restauratori. Sì, che oltre a prendere in considerazione il punto di vista stilistico, storico, prendano in considerazione e diano delle informazioni dal punto di vista della tecnica artistica, che è una cosa che porterebbe la conoscenza o l'esperienza di quello che si sta vivendo a 360 gradi, non limitata solo a una parte, che è quella dello stile. Mettiamo a verbale anche Fabrizio, grazie. Poi fra un po' dovevamo anche decidere a chi dare i biglietti. È arrivato anche un messaggino che dice: le cuffie nei musei stanno per essere bandite per motivi di igiene. Non so se sia. Ma veramente. Così, visto che io avevo parlato del fatto che mi piacciono le audio guide, che poi sono quelle di cui stava parlando, sì, anche Fabrizio ora. C'è un altro ascoltatore invece, Lorenzo, che ci scrive su Twitter a proposito dell'alimentazione nelle scuole, delle mense scolastiche. Ci sono i nutrizionisti, come no, che decidono i menù delle mense. È un genitore che viene eletto, c'è un genitore che viene eletto per fare verifiche a sorpresa sulla qualità del cibo, vedi? Ci sono anche un sacco di SMS che mi danno ragione su questa cosa. Dice l'ASLA, la dietologa che stabilisce il menù invernale ed estivo, sì, è l'ASLA che lo decide, a Genova pediatri ed allergologi hanno attivamente collaborato con i responsabili delle mense scolastiche, i menù le fanno le ASL, insomma, e così via. Fabrizio da Roma, buongiorno. Buongiorno, volevo intervenire se possibile su due, sulla scuola, sì, sulla scuola e sul museo. Due considerazioni brevi sulla scuola. Chi decide che il cibo, qual è il cibo buono per il bimbo? Il genitore non so se sempre sia in grado, mi rifaccio a questo, alle esperienze dei genitori che hanno rifiutato in passato la vaccinazione ai figli o le emotrasfusioni. Giusto esempio, questo è un bel esempio. La scuola debba dare una disciplina, sì, debba insegnare a mangiare insieme e quindi debba insegnare al, cioè, nel rispetto la... però Fabrizio, nel rispetto naturalmente delle inclinazioni personali o come diceva questo Carlo, delle allergie, delle cose, se uno non mangia carne, insomma, cose di questo genere. Questo è un problema medico che basta portare il certificato medico, la scuola, sì, deve uniformarsi, come anche usare uno sul fatto del non mangiare carne. Non so se questo è possibile, non c'è un certificato medico, è una scelta personale, è diverso, però lei dice giustamente la scuola deve avere un ruolo di educazione, quindi tocca a lei dare il ritmo su questo. Io sono abbastanza d'accordo su questo, la scuola deve anche, bisogna sapere pure, questo lo si sa nelle mense, che un bambino c'ha bisogno di X proteine al giorno e questo è il genitore, o di vitamine X al giorno, che cambiano negli anni. Quindi Fabrizio, però lei voleva parlare anche del museo? Sì, anche, c'ho la seconda sulla cosa rapidissima. Sì. Differenziare l'alimentazione del bambino a scuola può essere una discriminazione importante per il bambino. L'abbiamo già detto, questo l'ha detto Carlo. Musei, Fabrizio, dai, che abbiamo gli altri ascoltatori. I musei gratis, naturalmente con il contributo dello Stato e con il contributo del privato che deve dedurre il suo contributo. Basta essere andati una volta all'estero e sapere che si entra gratis al Metropolitan Museum, per esempio, e le danno il ticket per entrare. E se lei non paga, entra. Si vergogna come un ladro perché di fronte a lei e dietro di lei c'è gente che ha dato 10, 20, 50 dollari. Quindi è un'educazione. No, non ho capito questa cosa. Tu, Carlo, l'hai capito? Cioè, si paga offerta libera? Sì, c'è offerta libera. È un po' che non vado al Metropolitan, cioè tipo sempre, mai. Va bene, questo è un altro bel suggerimento, mettiamo a verbale anche questo. Grazie Fabrizio. Grazie mille. Vabbè, grazie, chiudiamo con un altro Fabrizio a questo punto, da Genova stavolta. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Tre Fabrizio in fila, eh? Sì. Sì. Oggi facciamo solo la F oggi, prego. Esatto, è andata bene. Volevo dare un suggerimento per i musei. Secondo me la parte che manca di più è la parte interattiva, nel senso esperienziale, quindi io sfrutterei, tra virgolette, i giovani delle scuole alberghiere piuttosto che dei conservatori, eccetera, organizzando all'interno dei musei dei percorsi gastronomici dell'epoca, delle opere che ospitano, piuttosto che dei madrigali nei portoni e negli atri dei palazzi del 1400, che sono spesso sede di musei e sono lasciati, diciamo così, morire. Quindi far vivere il museo con delle esperienze, delle emozioni che restano. Lei vuole moltiplicare, insomma, i sapori in tutti i sensi dell'esperienza al museo. Bravo, bravo, bella idea Fabrizio. Ma lei ha qualche parente in che c'è qualche ristorante? C'è un interesse? No, ha parlato anche di conservatorio, solo di cibo. Però penso che molti turisti che vengono in Italia, soprattutto, è vero, apprezzerebbero. Apprezziamo a tutto tondo la nostra cultura, e quello fa parte della nostra cultura. Quindi, certo. E soprattutto crea lavoro, quindi è un'ottima proposta questa. Bravo, Fabrizio. Grazie a voi. Questa è bella perché mette insieme tante cose, e in effetti, insomma, quando soprattutto uno straniero viene in Italia, si aspetta, come diceva Fabrizio, un'esperienza a tutto tondo, certo, quindi con dentro il cibo, sì, il vino, è che forse non fa tutto, non il è museo, detto che, esatto, uno spera che a un certo punto esca il turista dal museo e venga nella nostra pizzeria, di modo che poi paghi i suoi 28 euro anche da Alessio e Carlo. Adesso invece parliamo di cinema. beni culturali, Franceschini, quest'estate ha detto: facciamo il censimento dei cinema, delle sale storiche cinematografiche abbandonate o in disuso per via della rivoluzione digitale, per via del fatto che stanno cambiando un po' le abitudini, eccetera, per cercare di salvare quelle più belle, quelle più storiche, quelle più importanti. Noi gli abbiamo detto: vai a parlare con le ragazze di Old Cinema, un progetto che è nato un po' di tempo fa, che sta facendo proprio un censimento in questo senso e sta portando avanti iniziative proprio per rivitalizzare le sale cinematografiche. Una di queste iniziative avviene in questi giorni a Roma, al Cinema Rossi a Mentana, siamo in provincia di Roma. Ne parliamo con Roberta Bonazza di Old Cinema. Buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno, salve a tutti. Buongiorno. Allora, da venerdì, da ieri fino a domani, credo, che cosa avviene a Mentana? Allora, Mentana abbiamo cercato di, diciamo, mettere a fuoco e di tirar fuori quelli che sono gli elementi che stanno dietro la serranda chiusa del Cinema Rossi, e per cui abbiamo come prima cosa coinvolto il territorio, perché crediamo che un ingrediente fondamentale nella complessità del recupero delle vecchie sale sia proprio quello del capire se il territorio ha piacere di riavere una sala cinematografica. Se c'è mercato, tanto per andare sul brutale. Per non finire solo nella nostalgia. E allora noi dalle 16:30 in poi abbiamo coinvolto l'associazione culturale Daniel Zagni Lab, che parlerà di un laboratorio di cinema che hanno fatto con i ragazzi a Mentana. Poi avremo un momento dove ricorderemo la figura di Federico Fellini insieme a Enzo De Castro, che è stato il suo segretario particolare. Faremo poi un cortometraggio con Francesca Ciammiti, una giovane regista che ha fatto un lavoro sulla storia di un cinema e sul regista Carlo Lizzani, e poi entreremo nel vivo con la proiezione del docufilm sul cinema Dimenticati della Sabina di Mentana e dei dintorni, e avremo poi l'appuntamento con Daniele Lucchetti, che è un regista che da sempre è sensibile ai temi della periferia, e quindi insomma sarà con noi proprio per parlare di questo argomento. Senti, ma c'è speranza per questo Cinema Rossi che qualche ci sia un interesse per riaprirlo, non soltanto in questi 3 giorni in cui vi ospita in questa manifestazione? Ma guarda, se facciamo una lettura banalmente proprio diciamo d'immagine, l'arena del Cinema Rossi, da quando l'avevamo vista un anno e mezzo fa con gli arbusti, i gatti che giravano, e veramente sembrava una selva, guardandola ieri sera tutta ripulita, con lo schermo rimesso come una volta, con le persone che sbirciavano dentro, insomma questo è servito molto per accelerare un processo che il comune di Mentana ha fatto proprio nei termini che sta già guardandosi intorno per alcuni bandi, per riuscire poi a dare concretezza a questi famosi bandi dei comuni. Speriamo che lo facciano, e poi che ci sia qualcuno che aderisce, perché tante volte succede anche questo: magari c'è un'iniziativa, dei piccoli fondi messi a disposizione, poi per pigrizia, per mancanza di idee, oppure come dicevi tu, perché magari non c'è mercato, non se ne fa nulla. Invece grazie anche alla vostra iniziativa mi sembra che qualche speranza lì a Mentana ci sia, almeno sarebbe un cinema recuperato intanto, no? Veramente, noi ci stiamo credendo, e tra il resto anche in Trentino c'è un cinema, dal Trentino siamo passati a Mentana con storie parallele ma molto simili, il destino è trasversale di questi luoghi. Noi nel 2015 faremo con il Politecnico di Milano un'iniziativa che riteniamo utile per questo tema del quale stai parlando, proprio dentro la complessità degli attori, per cui non serve solo la passione, non serve solo la competenza, la nostalgia, ma serve proprio un insieme di competenze che possano poi portare alla riapertura del cinema. E con il Politecnico verrà fatto un corso aperto a studenti, ai comuni, ai referenti, dove saranno espresse tutte i vari elementi che servono per riapertura, per cui dal suono al ripristino dell'edificio. Io vi rinnovo i complimenti per quello che fate, perché e noi tifiamo per voi, perché ci piacciono anche a noi le vecchie sale. Faccio una domanda stupida che forse non c'entra molto, ma sono quello stupido dei due, non sono il giornalista. Le, le, vole, volevo chiedere che cosa pensa dello sgombero del Cinema America, visto che è stato sgomberato poco fa a Roma il Cinema America, che era occupato dal 2012. Certo, ma ecco, questa è una delle, diciamo, delle concretezze, delle cose che sono reali e non ideali, che accadono dentro quella complessità che dicevamo. Cioè, un cinema, come dire, ci sono quelli che potrebbero riaprirlo, ma poi ci sono problemi reali che sono di chi è proprietà, c'è una complessità probabilmente legata a delle leggi. Quindi l'esempio del Cinema America, che chiaramente piange il cuore, no? Quando sì, direi proprio di sì. Cose. Ecco, piange il cuore. Ma detto questo, però, è un elemento che svela la realtà della complessità di questo tema, no? Per cui è interessante che ci sia dibattito, voi ci date veramente una gran mano da questo punto di vista. E continueremo a farlo, ecco. Roberta. Grazie, grazie mille, grazie, grazie voi, intanto in bocca al lupo per quello che fate a Mentana. A presto, ciao. Ciao. Allora, siamo al traffico, adesso dobbiamo chiudere poi con Pompei. Pensavo col Teatro Valle occupato, così per chiudere sulle occupazioni, ma ne parleremo un'altra volta, spero presto. Chiudiamo con Pompei perché oggi musei a un euro in tutta Italia, abbiamo detto, aperture fino a mezzanotte. C'è anche Pompei con delle iniziative tra l'altro importanti, Si può fare cronache da un paese migliore. Toda gioia, toda bellezza, toda gioia, toda bellezza. Belleza que falta, belleza que rambla perdida en el barrio latino del mundo. Belleza de oro, belleza de nada, belleza de todo el pasado olvidado que llega otra vez. Belleza de agua, belleza de fuego, belleza que piensa y que no se cuesta. Belleza maleza, belleza de luz, belleza de noche, belleza de todos los hijos que lloran sin nada comer. Toda joya, toda belleza. Oh, noi abbiamo annunciato Pompei con l'intervista al sovrintendente Massimo Osanna, però adesso non ci risponde al telefono, Carlo. Oh, sono molto preoccupato. Pompei? È a Pompei? Sì. Penso di sì. No, forse era all'estero, l'avevamo contattato perché volevamo chiudere la puntata con lui, perché in effetti, insomma, musei a un euro. Sta approfittando del fatto che costa solo un euro e sta visitando museo. Il sito archeologico di Pompei. Anche perché, vabbè, c'è una piccola coda polemica. In realtà la buona notizia è che Pompei sta inaugurando una stagione teatrale. Nel teatro, con un anticipo di stagione già in questi giorni. Stasera dovrebbe esserci la Bohème. Poi è stato un problema col sindaco di Pompei, che ha accusato che sono stati lasciati fuori, leggo sulla stampa locale, anziani e studenti mandati a casa, troppi biglietti omaggio, La solita vecchia questione che quando ritorna. Partono gli omaggi, è un grande classico del teatro questo, ne possiamo esatto. parlare, tutte le prime, il grande problema le prime è che 18 file che sono esatto, però questo adesso non era tanto questo il nostro interesse nei confronti di Osanna, il suo intendente di Napoli. Volevamo commentare con lui come sta andando Pompei, gli scavi archeologici. Sono soltanto uno dei tanti. Ci chiami subito perché siamo un po' preoccupati, insomma Pompei è una situazione che è sempre che non si sa che cosa succede, quindi siamo un po' preoccupati, ci chiami. Giusto? Dici che ha ceduto un arco, non dico niente, assolutamente. Allora, perché tanto per dire, no, musei statali. Allora si va dalla casa natale di D'Annunzio a Pescara, noi siamo segnati alcuni, al Museo Archeologico Nazionale di Capocolonna in Calabria, io ci sono state, bellissimo, ci sono alcuni resti davanti al mare. Il carcere borbonico a Napoli si può visitare. Vabbè, Pestum, Ercolano, Pompei. Si visita il carcere. Si visita il carcere, poi si o è un museo anche. Sì. No, perché ci sono museo, anche questi. Sì. Mi ricordo a Londra di aver visto questi musei sulle torture medievali, che sono sempre dei musei bellissimi. No, io lì non sono stato, però vedi, è curioso. Comunque, abbiamo, non so, io ho segnato anche Santa Apollinare in Classe a Ravenna, posti meravigliosi. Oggi si può andare tutti questi posti al Colosseo a un euro e con ingressi a volte, non sempre, fino a mezzanotte. Castel Sant'Angelo, cioè, non tutti sono aperti fino a mezzanotte, non giustamente tutti, stai non dicendo, tutti, dipende dove riescono al solito a garantire il personale. Ti ricordi la polemica sul Colosseo? Assolutamente. Un altro posto bellissimo, lo sottolinei perché sennò dicevo ho sentito a radio si può fare, che si poteva fino alle 11:15. Ferento, a provincia di Viterbo, c'è l'antica città, l'area archeologica di Ferento, un altro posto meraviglioso. Io sto leggendo proprio a casaccio, eh. Cenacolo Vinciano, Certosa di Pavia. E il sovrintendente Osanna continua a non rispondere al telefono. Vabbè, peccato, perché volevamo chiedergli anche di questa stagione teatrale nel Teatro di Pompei, una bella iniziativa per rivitalizzare gli scavi. Anche dopo bravo, che siamo fatti tenevamo, fregare sì. il film dal British Museum, che ha fatto il film su Pompei. Vabbè, questa è una vecchia questione, dicevi? No, dicevo che eravamo interessati a questa questione della Bohème, che di come mai fosse stata scelta la Bohème per aprire, insomma, eravamo interessati. Va bene, in attesa di vedere se ci chiama lui, facciamo un po' di ascoltatori. Walter dalla provincia di Treviso. Pronto? Eccolo. Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Volevo rispondere a riguardo delle mense. Sì, allora, sì. Per quanto riguarda le mense, no. Allora, il menù viene fatto da una dietologa, ma almeno nella scuola dove io lavoro da circa 30 anni. Lei lavora, intanto chiariamo, lei lavora in una scuola, che scuola? Scuola primaria, scuola elementare, e io faccio, sono il collaboratore scolastico, il bidello. Ok, quindi lei ci dice, ci sta spiegando come funziona in pratica. Sì, in pratica. Allora, il menù normalmente viene fatto da una dietologa, in collaborazione tra chi fornisce il pasto e il gestore, che nel nostro caso è il comune. Quindi scusi, la pizzetta l'hai vinta tu, Carlo, perché avevamo scommesso che c'era un nutrizionista, tu hai detto di sì, ho detto forse. Non hai visto questo rivolo di saliva, è la bavetta. Di soddisfazione. Perché, esatto, di soddisfazione. Scusi, Walter, era una cosa tra di noi. Prego, quindi ci stava spiegando la dietologa, e poi? Le diete, per quanto riguarda il vegano e altre diete, l'accordo è manco, nel nostro, parlo sempre a livello scolastico nostro, basta fare semplice richiesta e la ditta fornitrice dei pasti fornisce il pasto vegano, il pasto... Si può chiedere tutto quello che di cui c'è bisogno. Basta comunicare. Qua siamo a Treviso, io dico, qua siamo, non so se poi la situazione è identica in tutta Italia, però appunto, ci sono delle leggi, delle regole, scuola. Certo. Giustamente. Per quanto riguarda portare i bambini a casa, se un genitore non vuole usufruire dei pasti, non usufruisce dei pasti e porta il bambino a casa. Ah, si lo può fare. Entro l'orario si può fare tranquillamente. E poi lo può riportare? Sì. Lo riporta nel pomeriggio. Finito l'orario mensa. No, nel senso che uno può fare il tempo pieno, ma comunque portare a casa il figlio per pranzo? Sì, è quello che ci sta dicendo Walter. Ah, ecco, perfetto, su questo, scusa. Non lo so se questo avviene in tutte le scuole, sono organizzate tutte nella stessa maniera. Comunque, grazie Walter per averci chiamato, perché ha fatto un bel chiarimento a fine puntata, grazie a questo bidello, insomma. Certamente, collaboratore. È bellissimo. Abbiamo scoperto come funziona. Con il bidello, invece. Sono molto contento. Dobbiamo dare il vincitore, caro mio. Ah, sì, Alessio. Giusto, certo, certo. Dillo tu, avevamo deciso che lo vince... dico io. Sì. Vince Barbara. Con la proposta di lotteria di far sì che tutti i biglietti, tutti quelli che acquistano un biglietto intero, ci ha tenuto a precisare, parteciperanno a un'estrazione. Proponiamo che l'estrazione non sia annuale, ma un pochino più frequente. E vince due premi per la mostra di Chagall. Lei vince i premi per la mostra di Chagall. Lei proponeva che con la lotteria si vincesse un viaggio in Italia, esatto, o qualcosa. Comunque, lotteria. Lo può decidere il ministero, direi. Una cosina facciamola decidere al ministero. Va bene. Ottimo. Con questo chiudiamo la puntata di oggi. Grazie a Peter Bescapè in regia, naturalmente anche ad Andrea Piana, che è autore di questo programma, così come Giorgio De Luca. Ci risentiamo domani. Buona giornata da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ciao, domani 8:30. Ciao. Sì.